le iniziative in realtà sono già cominciate il 4 di giugno, perché abbiamo fatto la presentazione del numero di Zapruder dedicato al ventennale di Genova. Quella serata è stata la prima serata finalmente in presenza con di nuovo le persone nel giardino di Vaghe, ed è stata anche emozionante anche per quel motivo. Faremo questo sabato la presentazione dell'archivio G8, che da Genova è arrivato a Bologna insieme a Carlo Baschmidt, che ha custodito l'archivio fino a questo momento. Subito dopo la presentazione al centro di documentazione faremo questo spettacolo, è una sorta di spettacolo narrazione sempre a cura di Carlo Baschmidt, che è uno spettacolo che è stato proposto per il decennale ed è molto bello perché riassume in breve le cose successe nelle tre giornate di Genova, con immagini originali, audio originali, quindi anche comunicazioni interne alla polizia, telefonate eccetera, e una voce narrante che in questo caso sarà di Erika Cavina, che è una nostra storica di quando al Vaghe faceva Multinello, lo spettacolo teatrale. Dopo questa ci sarà l'iniziativa in collaborazione con i ragazzi del Partello Resiste. Il 4 di luglio presentiamo in anteprima nazionale lo spettacolo 20 anni con la regia di Ivano Di Modica, quella, se qualcuno di voi ha partecipato, sta facendo il crowdfunding di raccolta già da un anno e mezzo, quasi due. La faremo in piazza San Rocco, oltretutto. Anche qui ci teniamo molto, perché riprendersi anche lo spazio pubblico di una piazza è molto importante, sia per noi che per i ragazzi del Pratello, dopo questo anno un po' buio, e soprattutto con temi come questo. La giornata sarà una giornata un po' più lunga, perché comincerà con dei concerti appunto che fanno parte anche della rassegna molto bella che farà quest'estate Il Fratello Resiste, e la sera verso le 9:30 faremo lo spettacolo I 20 anni, che è in realtà uno spettacolo a sola voce narrante, ma che anche lì ripercorre cosa sono state le giornate di Genova e anche cosa è venuto dopo. È l'ultima, anche se in realtà non è l'ultima iniziativa al momento in calendario, è il 9 di luglio, è un venerdì, e sempre al VAG in collaborazione con i ragazzi di Supporto Legale presenteremo la loro riedizione del fumetto, quello molto compartecipato in realtà, e in questo caso ci sarà la presenza di Zero Calcare, che appunto ha fatto delle nuove, una parte di tavole nuove anche per la riedizione del fumetto, e questo lo faremo lì al VAG. Naturalmente al 9 ci fermiamo semplicemente perché diamo appuntamento a tutti il 20 luglio a Genova, e per chi vorrà anche nelle giornate precedenti, dove ci sono altre iniziative sparse in tutta la città, ma non ci fermeremo qui, nel senso che il nostro progetto è quello di continuare anche a settembre e poi a ottobre, insomma, quanto riusciremo, a fare iniziative su il ventennale e su Genova, prendendolo come punto di partenza, prendendolo come spunto per ricominciare a camminare sui temi che da Genova oggi sono assolutamente ancora validi e attuali. Queste iniziative non sono così delle iniziative nostalgiche di celebrazione, ma servono anche per chi magari a Genova 20 anni fa non c'era. Assolutamente sì, queste iniziative sono un modo per cercare di spiegare a chi non c'era cosa è stata Genova, soprattutto su quali temi e quanto questi temi siano ancora appunto attuali. È anche un modo per noi, per chi c'era in realtà, di fare un ragionamento un pochino più articolato rispetto alla commemorazione classica o al raccontarci di cosa è successo e quanto siamo stati bravi o quanto sono stati cattivi le forze dell'ordine. Insomma, sicuramente ci sono dei ragionamenti da fare sull'evoluzione della repressione in questo paese, sicuramente ci sono da fare una sorta di autocritiche di che cos'è stato quel movimento e come è finito, però la cosa importante è ragionare per un racconto, per far comprendere l'importanza di quel momento e che cosa poi ha originato quel momento a chi non era probabilmente neanche nato, oppure era appena nato, o addirittura si ricorda, se no, qualche sprazzo di immagine nel TG perché era molto piccolo. Ci siamo confrontati anche con persone ed è stato molto interessante che alla fine, se vai a vedere, erano bambini, erano ragazzini, anche all'iniziativa appunto di presentazione di Zapruder c'era una media di età molto bassa rispetto a noi, è la cosa che ci interessa di più. Noi, se vogliamo farci la narrazione da veterani, ci troviamo attorno a un tavolo, ci facciamo una birra e ce la raccontiamo. Noi interessa fare un ragionamento un pochettino più ampio e soprattutto che sia un punto di partenza per riprendere in mano certe modalità, perché in fondo c'è stato anche tutto un pre, che è una cosa che a noi piace molto raccontare, che è stata una partecipazione enorme. Bologna ne è un esempio lampante, il Social Forum bolognese è stato un laboratorio di partecipazione bellissimo, diverso. Siamo addirittura arrivati a fare una festa del Social Forum bolognese al Parco Nord, che voglio dire, sono cose abbastanza particolari, pensate al momento, insomma.